Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 25. Passatempi. Si è dimesso? Come si è dimesso? Ma non può farlo! Non si è mai dimesso nessuno! Mio signore, mi permetta di rammentarle umilmente Celestino V, che nel 1294 compì lo stesso gesto. Non c'è bisogno di rammentarmi niente, sbottò Drago. Si è dimesso e senza avvisarmi poi. Mio signore, ultimamente il Santo Padre appariva alquanto turbato. Pareva, se così posso esprimermi, una pecorella che aveva perso di vista la strada maestra. Aveva timore del vostro giudizio e temeva di dolervi con la sua inquietudine. Non era felice? Domandò indagatore il meticoloso. Il segretario personale dell'ormai ex pontefice distolse lo sguardo, intrecciando le dita delle mani. Si raschiò la gola, non trovava le parole, ma Drago non ne aveva più bisogno. Aveva lasciato Mirko con Diossido a sbrigare le faccende più ordinarie ed era tornato a Roma. Aveva già iniziato a sentire la nostalgia di quel posto quando ne era lontano e poi voleva ascoltare le ultime novità dal suo amico Benny. Aveva invece trovato il segretario prostrato a terra che tremava come un budino caldo in attesa di dargli l'inaspettata notizia. Il pontefice non era più importante ormai. Era stato l'interfaccia fra lui e il mondo, ma poteva benissimo farne a meno. Quello che lo aveva irritato era stata l'inaspettata disubbedienza e l'imprevisto che aveva fatto, non previsto, capolino nei suoi piani. «E dov'è ora?» domandò inutilmente alla schiena tremula ai suoi piedi. «Ho capito, qui nessuno sa niente, come al solito!» Sentiva crescergli dentro l'ira. Non voleva dare spettacolo. Si limitò a dirigersi svelto verso la stanza della segnatura, mollando cazzotti con le nocche alle pareti. Arrivato sotto la raffigurazione della scuola di Atene, la guardò, prese la mira e tirò uno sputo mirando agli occhi. La buona mira, la lunga pratica e la collera furono una combinazione perfetta. Sebbene il bersaglio fosse piccolo, presto un grumo di bolle di bava colò dal viso di Aristotele. Drago stette lì a guardarlo colare lento sul mantello azzurro, mentre il suo autocontrollo riprendeva il comando. In fondo era solo uno sputo, un omino anziano e curvo, solo, dimenticato. Che male poteva fargli? Da un tedesco proprio non me lo aspettavo, ridacchiò fra sé e sé. Assaporò il silenzio e la pace della stanza. Aveva fame, ma non voleva andare nelle cucine per ritrovarsi fra i piedi i soliti inetti, umani, adoranti. Voleva stare da solo. Tirò fuori dalla tasca il cellulare, fece un numero. «Vieni qui», disse. Chiuse la comunicazione e guardò pensoso il telefono. Poi lo spense e lo gettò sul sofà. Andò verso il gruppo di finestre incastonate negli affreschi di Raffaello e le spalancò per godere della brezza divina che spirava nella mattina romana. Poi si sedette su uno dei due bassi sedili di pietra posti lì sotto. Ascoltò il bussare alla porta per 3 volte prima di invitare l'ospite a entrare. Il segretario, senza più datore di lavoro, entrò e attese che il senza nome parlasse. Ma il senza nome continuava a guardare fuori dalla finestra e a tacere. E quando si decise a parlare, fu come ascoltare il rumore di tutte le vetrate dei mosaici di San Pietro frantumarsi insieme a terra. «Iniziate a preparare le vostre cose. Voglio che tutta la città del Vaticano venga evacuata. Non deve rimanere nessuno». Il tono della voce era neutro. Non di meno il segretario sbiancò come se tutto il sangue gli fosse stato risucchiato in qualche voragine che ignorava di avere. Per un attimo ebbe la visione di un giovinastro con capelli lunghi e fattezze luciferine che guardava fuori dalla finestra. Era sporco, cupo, da lui emanava come un senso di minaccia. Poi la vista gli si offuscò e per un istante barcollò, ma riuscì a mantenersi in piedi. Quando fu nuovamente in grado di vedere, sospirò di sollievo. Il senza nome era ancora lì, che lo guardava con aria incuriosita. Il battito del suo cuore si calmò, si sentì riempire nuovamente da quel miscuglio di gioia e paura che gli era ormai abituale. «Voglio stare da solo, non te la prendere», disse Drago con un ghigno che al segretario parve il più bel sorriso del mondo. Il demone orribile era sparito. Corse lieto ad annunciare il desiderio del senza nome. Mirko discendeva il bagnasciuga verso sud. I piedi nudi affondavano appena nella sabbia umida e calda. L'aria del mattino era limpida e frizzante di energia primaverile. Diafane nuvole velavano appena il cielo azzurro sopra la collina, mentre, spinti dalla brezza, gli aromi delle erbe e delle piante selvatiche scivolavano lungo il pendio fino a combinarsi con il profumo del mare. Era una mattina perfetta e una volta tanto anche il suo travestimento obbligato gli tornò comodo. Aveva indossato la vecchia kefia a guisa di copricapo beduino. Doveva riconoscere che sapevano davvero come vestirsi nel deserto. Con gli occhialoni neri alla Ray Charles e la kefia che gli incorniciava il volto, avrebbe potuto ballare nudo fra i bagnanti che nessuno lo avrebbe riconosciuto. Era disoccupato, ebbene sì. Nell'ultima settimana aveva visto gli amici separarsi. Drago aveva detto che aveva bisogno di stare da solo per ricaricarsi le batterie ed era partito per Roma. Era tipico del meticoloso. Quando aveva qualcosa in mente, spariva per giorni o mesi, per poi ricomparire con qualche nuova idea folle quando meno se l'aspettavano. Diossido aveva iniziato a cercare gli altri per lavorare al progetto che avevano discusso insieme. Insomma, come al solito, sembrava che tutti avessero uno scopo tranne lui. La materia, tuttora evanescente e indeterminata dei suoi sogni, non gli indicava con certezza una strada, un sentiero, neanche un vicolo. Avrebbe potuto fare tutto quello che voleva, realizzare ogni cosa che avesse mai desiderato, anche la più inconfessabile, ma proprio questo paralizzava la sua capacità di decidere. Così, quella mattina, mentre camminava sulla spiaggia, era stupito e felice di sentirsi bene e di provare piacere per una cosa così semplice, una cosa in fondo banale che non aveva mai apprezzato come in quel momento. Forse era questa la sua strada, si disse, vivere vecchie esperienze con una nuova consapevolezza, trovare lo straordinario là dove prima vedeva solo consuetudine e banalità. Il suo rapporto con il mondo era cambiato e gli aveva cambiato il modo di vivere nel mondo. Si sentiva addirittura a casa nel mondo, meravigliato di come ci si sentisse in pace. Era il perfetto mattino di una perfetta giornata. Gettò lo sguardo sopra di sé sulla collina. Si vedevano gli alti tralicci delle gru ondeggiare come animali indaffarati a costruirsi il nido. Non riusciva a scorgere la cattedrale, ma aveva visto i disegni e già ne poteva percepire la presenza e immaginava di vederne il vertice svettare contro il cielo blu. Quel posto avrebbe cambiato definitivamente la città. Seguendo le insenature che le onde avevano ritagliato lungo il bordo della spiaggia, si lasciò alle spalle la collina e le sue laboriose formichine. Depositava le sue impronte fra il mare e la sabbia tiepida, sentendosi come un grosso, umido anfibio preistorico che aveva appena deciso di vivere sulla terraferma. C'era un bar poco più avanti sul bordo della spiaggia. Ne usciva una melodia che gli sembrava Mozart, anche se non era sicuro. Si fermò in piedi ad ascoltare. Era senza camicia, con le scarpe in mano, i jeans arrotolati, lo zainetto a tracolla, la kefia che sventolava sulle guance. Si era bloccato, rapito dalla bellezza della musica, ritto come un suricato che annusa l'aria. Non si mosse fino alla fine del brano. Quando si ridestò, comprese che tutto quello che ora davvero voleva era quello che stava facendo: camminare, andarsene a zonzo per conoscere quel mondo che aveva sempre calpestato con ignoranza e timore. Allorché si rimise in cammino, i colori della natura si erano caricati di sfumature ancora più intense di prima. I profumi del posto lo invadevano, alleggerendo ogni nuovo passo. Percepiva la sabbia scorrergli sotto i piedi come se fosse il mondo a girare e lui ci camminasse sopra come su un tapis roulant, un gigante che camminava in equilibrio sul pallone della terra. Si sentiva come se avesse potuto camminare per sempre. Camminò senza avvertire il passare del tempo, continuando a fissare i suoi piedi che si alzavano e si posavano su quel minuscolo pianeta, ora nel mare, ora su deserti ricchi di fossili calcificati. Le alghe erano primitive forme di vita intelligente che si stavano sviluppando su quel pianeta sconosciuto e lui badava bene a non calpestarle percorrendo l'equatore alieno. Quando rialzò lo sguardo, vide davanti a sé, lontana nella foschia umida del mare ormai caldo, una lunga chioma bionda che disegnava arabeschi dorati in aria, mentre la ragazza a cui era attaccata eseguiva delle figure acrobatiche a corpo libero sulla spiaggia. Si avvicinò con discrezione e rimase ad osservarla fino a che lei non si accorse di lui. Le sorrise e il suo sorriso fu contraccambiato. Nugoli di farfalle bianche danzavano nell'aria come coriandoli in un giorno di festa. Iniziò ad imitare le mosse della ragazza, mentre questa rideva della sua buffa goffaggine. Ogni volta che ruzzolava a terra, Mirko si sentiva sempre più leggero. I giorni intanto passavano veloci anche per Drago Ocelot, intento a esplorare la sua nuova, deserta, enorme dimora. Il Vaticano era perfetto per prendersi un po' di tempo. Lì sarebbe stato isolato, ma non si sarebbe annoiato in compagnia degli oggetti più interessanti di ogni tempo e di ogni luogo. Aveva bisogno di stimoli nuovi. Si era detto che fra tutti i misteri e i segreti del Vaticano avrebbe senz'altro trovato qualcosa di nuovo che lo eccitasse. E poi, quale miglior ritiro per il Deus Absconditus? Aveva passato intere giornate nel museo egizio contemplando mummie e scheletri, sfiorando con le dita la superficie liscia e compatta come cuoio delle salme. Si chiese se dopo la sua morte a qualcuno sarebbe venuta l'idea di imbalsamarlo e soprattutto se gli sarebbe piaciuto essere prigioniero di un corpo morto per l'eternità. Prese un appunto mentale per dare disposizioni in merito. Voleva essere cremato e disperso nello spazio. I frammenti del suo corpo avrebbero percorso orbite differenti. Forse avrebbe fecondato qualche asteroide vagante facendo crescere nuove muffe e rinascendo i minuscoli batteri. Non sarebbe ammuffito in qualche buio mausoleo. Armato di alabarda, aveva vagato, intimorito, nelle grotte fra le tombe dei papi, tendendo le orecchie verso ogni eco del suo respiro che rimbombava spettrale fra i corridoi. Si domandò se almeno alcuni avessero davvero creduto in tutto ciò che predicavano o se fossero stati costretti dalle circostanze a recitare un ruolo che prevedeva un copione ben preciso per non precipitare il mondo in un caos ancora maggiore. Nelle catacombe non riuscì a trattenersi a lungo. Mentre le stava percorrendo, si era sentito circondato dai morti, troppi scheletri lungo le pareti, ossa sotto di lui e sopra di lui, ossa su ossa, accumulatesi nei secoli che lo schiacciavano, ognuna con il carico grave di anni che la rendeva simile a un immoto guardiano del tempio. Frammenti di migliaia di persone che avevano costruito la loro città sotterranea e che presumibilmente volevano solo stare tranquilli e accogliere esclusivamente i loro simili. Aveva vinto i vivi, ma ebbe un brivido gelato di fronte ai morti. Dovette tornare in fretta in superficie, affamato di aria viva e di solitudine. Si era girato per Piazza San Pietro di notte, intavolando lunghi discorsi con le centinaia di statue greche e romane, talvolta sbraitando le sue domande al cielo. Chi fosse passato nelle immediate vicinanze del perimetro della piazza avrebbe potuto udire delle urla nell'oscurità quando il discorso si faceva più accalorato. Se la questione della sera fosse stata particolarmente controversa, si sarebbe sentita una risata beffarda echeggiare nel colonnato quando Drago avesse concluso il discorso con l'immancabile vittoria delle sue ragioni. Aveva sostato a lungo davanti alla tomba di San Pietro, desiderando interrogare quelle ossa, scuoterle, domandargli se era così che avevano desiderato che andassero le cose o se fosse deluso di quello che era diventato il mondo 2000 anni dopo. Avrebbe anche voluto chiedergli che ne pensava del suo lavoro, se riteneva che il mondo fosse migliorato grazie a lui. Si era accovacciato sul pavimento della Cappella Sistina al centro di un cerchio arabescato di tasselli colorati, aspettando il tramonto. Aveva fissato gli affreschi immedesimandosi nel buio che lentamente ne divorava i colori e le figure. Poi, sdraiato, semi-addormentato sul marmo, aveva atteso l'alba per assistere alla rinascita della rappresentazione universale. Fu così sopraffatto dall'assoluta bellezza dell'opera che quel giorno non riuscì a toccare cibo. Nei pigri giorni di sole si stendeva sul prato, davanti alla moderna scultura a forma di palla, così simile a quella della sua vecchia città. Portava con sé i libri scovati nella biblioteca che gli parevano più interessanti e passava i pomeriggi abbronzandosi e leggendo. Nella pinacoteca si colmò gli occhi di visioni di secoli e secoli di storia, drammi, orrori, trionfi. Si chiese come sarebbero stati i prossimi artisti del nuovo mondo, se sarebbero stati capaci di aprire prospettive inedite ora che tutto era cambiato. Un giorno trovò le scarpette rosse del pontefice. Erano lì, in un angolo, abbandonate. Per un istante provò qualcosa di simile ad una fitta al cuore. Poi, con delicatezza, ci lasciò cadere dentro un lungo sputo attaccato a un filo di bava e si sentì subito meglio. Era tornato bambino giocando a scivolare sull'immensa scala chiocciola dei musei. Poi era salito fino alla cella delle campane, si era fermato proprio sotto la più grande e aveva urlato fino a farsi assordare dal riverbero bronzeo della sua voce. Era meraviglioso poter girare ovunque senza incontrare anima viva. Finalmente non trovava più ostacoli a ogni passo, quegli inutili umani con la loro lentezza di pensiero, di azione, con le loro obbrobriose e ipocrite cerimonie. Non lo intralciavano più con la loro presenza. Poteva finalmente godersi la bellezza e la magnificenza del luogo come se tutto fosse stato creato appositamente per lui. Il mondo e tutto ciò che conteneva era lì solo per lui. Quando ne aveva voglia registrava dei videomessaggi per le riunioni, anche se ultimamente non aveva molta voglia di predicare. Si limitava a ribadire i concetti già espressi in precedenza. Non voleva interrompere le sue esplorazioni per organizzare una diretta, così spediva per email gli interventi che poi sarebbero stati diffusi in Universo Visione e subito ritornava felice nel suo mondo. Eppure col tempo aveva iniziato ad avere gli incubi. La prima volta non ci fece molto caso. Poi iniziarono a ripetersi a distanza di una settimana. Quando accadeva cercava affannosamente di svegliarsi senza riuscirci. Tentava di muoversi, ma si trovava prigioniero del sogno. Riusciva a vedersi sdraiato e contratto dalla paura, però non riusciva a richiamare la coscienza nel suo corpo. Tutto ciò che poteva fare era mugolare a denti stretti. Nel sogno non riusciva a capire se si sentiva vivo e inorridito in un corpo morto o morto in un corpo vivo che non lo voleva lasciare andare. Gli era successo anche di risvegliarsi di colpo con l'eco del suo grido che ancora echeggiava tra le pareti dei vasti ambienti. Al risveglio riponeva il ricordo nel baule nero delle cose da dimenticare e lo seppelliva nella cantina della mente, anche se quasi sempre un ricordo, vago e appiccicoso come muco, gli restava appiccicato fino a sera. E il mondo intanto andava avanti, leccandosi le ferite vecchie di secoli, andava avanti. La Terra proseguiva la sua orbita attorno al Sole, i satelliti seguivano i loro pianeti come da miliardi di anni a questa parte. Le operose formichine superstiti sembravano cavarsela benissimo da sole. La maggior parte delle persone avevano ripreso ad esercitare l'attività precedente l'avvento. Erano la colonna portante della rinascente civiltà, quelli che aiutavano chi non aveva mai avuto o chi aveva perso il suo posto nella società. I sopravvissuti erano pur sempre animali sociali. La loro specie aveva superato ben peggiori calamità. Nonostante l'azzeramento delle sinapsi dovuto al Devil, l'ingegno umano non era mai venuto meno e lentamente si ricostruivano città, seppure ben diverse da quello che erano state in passato. Le abitazioni erano quasi sempre costruite a grappoli, con vasti spazi verdi fra le case. Per la maggior parte erano armonizzate con l'ambiente fin quasi a mimetizzarsi con esso. Spesso in ambienti non ideali si sviluppavano verso il basso per avere un migliore isolamento termico e un considerevole risparmio energetico. La luce solare veniva convogliata all'interno attraverso specchi e fibre ottiche ad alta efficienza, collegate a occhi di vetro puntati verso il sole. Il sistema di trasporti era stato riprogettato completamente. Erano già stati eseguiti i primi tracciati per le nuove linee di trasporto sotterranee e di superficie elettriche. Il meccanismo di istruzione scolastica era stato ripensato e affidato alle migliori menti che riuscivano a superare un approfondito e rigoroso esame attitudinale. Il punteggio che ottenevano gli studenti agli esami veniva addebitato all'insegnante come indicatore delle sue capacità di educatore. Internet distribuiva conoscenza in modo capillare, di modo che ognuno poteva avere l'informazione richiesta in qualsiasi momento. Le risorse energetiche e alimentari erano ben bilanciate e sfruttate in modo proporzionato agli effettivi bisogni. Del resto la popolazione mondiale si era quasi dimezzata. Le riunioni con il senza nome si erano diradate. Le ultime volte in video era apparso in penombra, parlava poco, sembrava distratto. Ma il mondo se la cavava benissimo comunque. Sul fondo oceanico, a circa 2500 metri di profondità, le fumarole nere continuavano a eruttare volute scure di acqua bollente e minerali vulcanici, mentre le colonie di archeobatteri e microorganismi continuavano a convivere e proliferare insieme a gamberetti, pesci, granchi ad una temperatura prossima ad un centinaio di gradi, indifferenti a tutto il trambusto che era avvenuto in superficie. I mesi passarono in fretta. Dopo le grandi rivoluzioni, il tempo si accartoccia su se stesso, in silenzio, indaffarato a tessere nuovamente insieme i fili della storia. Le genti si andavano ridistribuendo sulla faccia della terra. Nuove vite nascevano, vecchie esistenze si spegnevano, memorie svanivano e altre apparivano. Ribolliva di attività la buccia della terra.